Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Allora, 800 24 00 24. Beh, dovremmo parlare in termini di cronaca e di attualità del caso Mills, ma lo faremo domani. Le feroci accuse al primo ministro di essere un corruttore, perché Mills è stato corrotto secondo il tribunale, secondo la decisione sentenza del giudice Gandus. Ne parleremo domani. Oggi avevamo pensato che fosse importante, e pensiamo tuttora che sia importante, molto importante, parlare di una conversazione tra due grandi vecchi, tra due augusti vecchi. Don Verzé, il prete che tanti anni fa decise di fondare un centro di ricerca e di sanità, un centro ospedaliero laico, il famoso San Raffaele, e che ne ha fatto nel corso del tempo non soltanto un grande centro di eccellenza, appunto, di ricerca e di cura, ma anche, fondando persino un'università, una sorta di grande fabbrica di idee, che oggi Maurizio Crippa sul Foglio dice sono fondate su una sorta di ideologia post-cattolica. Riformula il concetto di carità: non bisogna prendersi cura dell'uomo sofferente, bisogna guarirlo e dargli possibilmente la vita eterna attraverso la scienza genetica, e altre idee, diciamo. E Don Verzé parla con Carlo Maria Martini, che è stato arcivescovo di Milano. Milano è la più grande diocesi del mondo, non si scherza, che è un grande biblista, esegeta della Bibbia, che è un gesuita. I due parlano, ciascuno con un proprio punto di vista, che non si sovrappongono, però convergono. Convergono in che cosa? Convergono in questo libro che si chiama Siamo tutti sulla stessa barca, la conversazione animata da Armando Torno, e ieri il Corriere della Sera ha pubblicato degli stralci, ampi stralci di grande interesse. Convergono in che cosa? Nel chiedere alla Chiesa Cattolica di essere diversa da quella che è sempre stata, il che naturalmente va bene. Ecclesia sempre reformanda, dicevano i canonisti. Va bene, diversa, ma in che senso diversa? Nel senso che la Chiesa deve rinunciare ad essere severa, magistra, deve essere sempre più madre, deve dare all'uomo contemporaneo indulgenza, come scrive oggi Isabella Bossi Fedrigotti, che è entusiasta di questa loro conversazione. Su quali terreni? Beh, su tanti terreni, per esempio quello dei divorziati risposati. Se tu, per tua scelta o per scelta del tuo coniuge, ti trovi nella condizione di una rottura del vincolo matrimoniale, che per i cattolici è, almeno fino ad ora, un sacramento, un segno divino che viene, diciamo, come si può dire, amministrato in terra da un ordine consacrato, i preti. Poi tutto può cambiare, si può diventare protestanti, si può fare quello che si vuole, però... Allora, se ti si rompe il matrimonio e tu consacri questa rottura con un secondo matrimonio, naturalmente civile, perché i preti non ti risposano, a meno che non sia stato annullato il matrimonio precedente, cosa che alcuni trovano un po' ipocrita, ma insomma no, invece l'annullamento ha un suo senso legale. Se tu ti ritrovi in una nuova famiglia, eccetera, e l'indissolubilità del matrimonio è andata a farsi fottere, e tu sei... La Chiesa ti ama, ti vuole bene, fa con te tutto quello, però non ti ammette al sacramento della comunione. È una cosa piuttosto severa e può essere presa come un atto di vessazione e di crudeltà spirituale da un sincero fedele della Chiesa, che magari è in questa situazione non per sua colpa, diciamo così, colpa, anche se è difficile qui parlare di colpa. Insomma, ha subito il divorzio. Però loro dicono andiamogli incontro, prendiamo in mano questa questione, risolviamola, eccetera. Poi, per esempio, Don Verzé questo dice: diamo la pillola alle donne del terzo mondo perché non facciano più tutti questi figli. Ma che è sta roba di fare figli? Crescete e moltiplicatevi, che stupidaggine. Diamogliela sta pillola, così risolviamo il problema della povertà. E invece la Chiesa, e lo stesso Ratzinger, la pensa diversamente. Recentemente, andando in Africa, Ratzinger ha ricordato che, insomma, non si risolve il problema della povertà facendo meno figli. Poi i vescovi, ma perché li deve nominare il Papa? Eleggiamoli. Eleggiamoli, facciamo vescovi per acclamazione, come si è fatto per tanto tempo nella storia della Chiesa Cattolica. Un'altra bella botta, diciamo, alla gerarchia, alla centralità di Pietro e della sua sede papale, eccetera, eccetera. E poi molte altre cose di cui parleremo tra poco con Andrea Tornielli, vaticanista del Giornale, con Marco Politi, vaticanista editorialista di Repubblica, autore di un libro di successo che si chiama La Chiesa del No, indagine sugli italiani e la libertà di coscienza, edito da Mondadori, un libro in cui mi fa a pezzi personalmente, ma io gliene sono grato perché in questo modo si statuisce la civiltà del parlare tra diversi che non la pensano nello stesso modo. Filippo Di Giacomo, sacerdote, editorialista della Stampa, che conduce su Radio 24 il programma Il Cielo in una frase, la domenica mattina alle 6:30, mattiniero. Sì, tra gli sfigati così. Mattiniero e Don Di Giacomo. Bene. Don Di Giacomo, com'è questa faccenda? Insomma, se io mi faccio una seconda famiglia e quindi sostanzialmente accetto di vivere in una situazione di doppio matrimonio, insomma, la Chiesa deve perdonarmi e riammettermi all'Eucaristia. È una tesi naturalmente stralegittima che la Chiesa non riconosce come possibile allo stato dei fatti, ma che molti preti, laici, cattolici, fedeli, devoti, chiamiamoli come vogliamo, implorano venga ammessa, insomma, una sorta di clausola di garanzia per non essere vessatori, per non essere inutilmente rigorosi, inutilmente severi, e per dare un'idea di apertura della Chiesa al mondo, insomma, al mondo e alle sue esigenze spirituali. Com'è la faccenda? Lei è d'accordo con Martini e Verzè? Ma all'orecchio di un canonista, questo utilizzo che gli sta facendo la parola Chiesa appare abbastanza impropria, sì, perché la sta identificando con la gerarchia. Sì. La Chiesa è l'insieme di tutti i battezzati, sì, e persino quindi di quelli non cattolici. Sì. Chi riceve il battesimo fa parte della Chiesa. Sì. Poi c'è una quindi si deve decidere per referendum? No, non si deve decidere per referendum. Io sapevo che c'è una gerarchia. Non si deve decidere per referendum, però ne riprende la categoria della Chiesa. Bisogna, sì, ricordare che la Chiesa, sì, cammina con due piedi. Sì. La tradizio e il sensus fidei. Sì. La teologia sono le scarpe, sì, per cui a volte il teologo calza il piede della tradizio, sì, a volte il teologo calza il piede Ma qui non è questione di teologia, no, è questione di amministrazione dei sacramenti. No, quindi... ma quando appunto il sensus fidei dei fedeli, in un contesto in cui, diciamo così, si interagisce in una comunione, sì, presenta... chiamiamolo così, questa non osservanza, sì, di una disciplina ecclesiastica specifica che viene dettata nel contesto cristiano solamente dalla Chiesa Cattolica, il problema è quello di chiederci se ad un certo punto non ci sia da parte di questa interpretazione, sì, autentica della fede, che è sensus fidei, una richiesta alla parte, diciamo, istituzionale della Chiesa. Posso... di rivedere, diciamo, gli occhiali con cui guarda il resto del mondo. Con molta simpatia, naturalmente, nella prospettiva di una chiacchierata, eccetera, posso tradurre, diciamo, sì, perché lei è prete, insomma, sì, io sono laico, io devo, sì, tradurre, abbia pazienza. Lei dice, insomma, siccome la Chiesa è il popolo di Dio, se i fedeli non osservano i precetti, diciamo così, storicamente depositati, sì, quindi che possono cambiare nel corso vuol del dire tempo, che osservano un'altra norma. Ecco, bisogna cambiarli questi precetti. Ma quindi successo, se non c'è disciplina, è diciamo, successo, è successo per gli ultimi due dogmi proclamati dalla Chiesa, sì, Cattolica. Se si ragionava con Tommaso, sì, l'Immacolata, che era una devozione popolare, sì, fino a 1850. Ma questa è teologia. Nell'altro caso invece si sta parlando della vita concreta dei fedeli. Quindi, diciamo, se prendono la pillola bisogna mettere la contraccezione e buttare nel cestino la umane vite. Se i fedeli si risposano e vogliono l'Eucaristia, bisogna dargliela. Cioè, la sua idea è questa o no? Nel ma l'Umane Vite numero 10, uno dei capitoli diciamo, più citati e meno letti, sì, dei documenti pontifici, stabilisce, tra l'altro in un discorso al Comitato Centrale del Partito Comunista lo riprese solo Berlinguer e si fece sbertucciare da un articolo sull'Espresso all'epoca. Si parla del diritto naturale dei coniugi, sì, a stabilire quando e quanti con metodi naturali. Lei come, ecco, il discorso, sui metodi. Ora, per esempio, è una bella differenza, Sì, io non sono medico, quindi azzardo solamente un'ipotesi, perché queste sono risposte che magari un prete vorrebbe anche sentirsi dire dai medici cattolici e non dal cardinale di turno. Sì. Se per esempio siamo passati dalla pillola Pincus con tutte le perplessità che aveva Paolo VI su quella pillola a un qualcosa di diverso, perché non dovremmo rifletterci su? Certo, certo. Non so se i medici siano le persone più giuste per decidere del carattere unitivo, procreativo dell'unione tra uomo e donna, cioè una definizione cattolica di ciò che è l'amore e di ciò che è anche l'eros e l'agape, cos'è il matrimonio, cos'è la famiglia. Non affiderei tutto al medico. No, però... ancora lei come prete dovrebbe avere un'autorità. No, ma perché, ma io sono, diciamo così, sono cattolico praticante e grazie a Papa Ratzinger spero pure di poter morire cattolico praticante, quindi non rifiuto nulla di ciò che la Chiesa mi propone. Forse per Don Verzé la data si allontana molto nel però tempo. Poi nella Chiesa il discorso dei carismi è importante, per cui forse anche il fatto che due anziani sacerdoti come Verzé e Martini dicano delle cose. Isabella forse... Bossi, Federicotti, lo chiedo a Andrea Tornielli che è a Milano e poi vedremo a Marco Politi che è qui con noi in studio, anche lui insieme a Don Di Giacomo, graditissimi ospiti. Dunque, Isabella Bossi, Rossi Federicotti nel Corriere di oggi dice che siccome i due sono molto vecchi sono più vicini a Dio, che è un modo anche bello, letterario, lei è una scrittrice, una commentatrice diciamo libera eccetera, io però osservo una cosa, allora Prodi ha detto io sono un cattolico adulto e molta parte dell'opinione diciamo progressista ha detto ah che bello un cattolico adulto. Gli hanno risposto, ma guarda che veramente la speranza è bambina, il cattolicesimo si riconosce diciamo in uno stato anzi di infanzia spirituale, questo fatto dell'adulto sa molto di così, insomma, di sembra uno scimmiottamento, una caricatura dell'idea della ragione che si fa un illuminista, insomma, non c'è bisogno di essere adulto per credere in senso cattolico. Adesso però addirittura non più adulto, ma vecchio, cioè il vecchio è più vicino alla voce di Dio e quindi bisogna starlo ascoltare e fare quello che vuole lui. Tornielli, ma dove andremo a finire? Ma devo dire, qui si tratta di due vecchi, soprattutto parlando di Martini, che hanno avuto, insomma, non credo si possa generalizzare quanto al vecchio. Io però noterei come premessa una cosa, ci troviamo di fronte, almeno per le anticipazioni che abbiamo letto, io ho letto solo quella del Corriere, non ho letto libro, ma ci troviamo di fronte a Zè che fa l'incendiario e che spacca diciamo così richieste, le sue lancia delle provocazioni o comunque delle richieste forti. Martini mi sembra che anche rispetto a cose che ha detto in passato sia più che prudente e non gli dia praticamente spago, perché sulla questione della pillola praticamente non risponde, sulla questione del divorzio la pone in termini così problematici perché dice che non ci deve essere leggerezza e superficialità, restringe il caso soltanto a devotissimi divorziati che hanno poi ricostruito una famiglia e poi dice chiaramente che questa non è una cosa che può essere risolta dal prete, dal vescovo, ma eventualmente che il Papa la prenda in considerazione. Sull'elezione dei vescovi, allo stesso modo, mi sembra che ci sia una... Per cui ecco, io farei notare che non si può dire Martini e Verzetti. Lei farebbe notare che Martini ha la prudenza gesuitica, la famosa cautela gesuitica, e invece Don Verzetti non ce l'ha. Vabbè, d'accordo. Marco Politi... Io vorrei dire che essendo vecchi sono anche un po' più liberi, sì. Perché quello che noi osserviamo che oggi nella Chiesa... Allora la Chiesa Cattolica è l'istituzione più libera del mondo perché è gerontocratica, sono tutti vecchi quelli che la comandano. Difatti chi comanda è particolarmente libero. Questo è importante, vede? Però c'è tutta una generazione di mezzo che adesso ha anche paura di parlare, ha anche paura di riflettere. Ecco perché due vecchi, chiamiamoli così affettuosamente, come Verzè e come Martini, comunque esprimono un disagio che c'è. Io penso che la Chiesa Cattolica è un grande corpo, ricchissimo, che cammina attraverso la storia. Cose che sembravano immutabili 100 anni fa no, non lo sono non più oggi. Non è un corpo improprio, autodeterminato, no, è il corpo di Cristo, no? Dicono. Per me laico è un corpo storico, non entro adesso nelle questioni teologiche. Ah, un'istituzione, dice lei. Sì. No, una realtà viva di uomini e donne, milioni di uomini e donne, di pensatori, di artisti, di gente appassionata anche dal punto di vista dell'impegno per i fratelli e per le sorelle. Allora, cose che 100 anni fa erano indicibili, per esempio col Concilio Vaticano II sono cambiate. La libertà di coscienza era anatema, la libertà di religione, il rapporto con gli ebrei, pensiamo soltanto. Gli ebrei erano deicidi. Oggi Ratzinger giustamente va a Gerusalemme e sottolinea il legame inseparabile. Alla radice della nostra fede. Esattamente, il legame inseparabile che c'è fra cristiani ed ebrei. Allora, per esempio, la questione dei vescovi. Adesso, diciamo, non appassiona moltissimo il tema se il vescovo debba essere eletto o no. Però certamente, no, voglio dire, sì, la larga opinione. Vabbè, interessa molto di più il celibato, per esempio, sì, o la storia. O le veline. O la questione del divorzio. Ma per esempio, i vescovi all'inizio del cristianesimo erano eletti. Sì, certo. Oggi sono nominati, non è che abbiamo un pezzo di carta. Il Papa era addirittura eletto dai romani. Esatto, quindi non è che abbiamo un pezzo di carta firmato Cristo e cui dice questo è il mio decreto, così deve essere fatto. Quindi ci sono anche adattamenti storici. Allora prendiamo la questione che interessa invece milioni di uomini e donne cattolici, credenti, come la questione del divorzio. Intanto notiamo che nelle grandi culture varie l'idea che un matrimonio, quando è arrivato alla fine o si è rotto, si è spezzato, può essere diviso, per esempio dalla tradizione ebraica, che è quella più vicina a noi. Sì. Tutte le altre chiese cristiane, anche gli ortodossi, che sono di tradizione apostolica, quindi che nascono direttamente dal gruppo degli apostoli, ammettono il divorzio e di risposarsi. Lo ammettono però con una particolarità che ha un valore. Dice, tu hai rotto questo sacramento, quindi il secondo matrimonio in forma penitenziale lo farai con una liturgia minore per ricordarti che tu hai peccato, però non ti escludo per sempre dalla comunità dei sacramenti. Allora, nel 1980 c'è stato il sinodo dei vescovi, i rappresentanti dei vescovi di tutto il mondo insieme al Papa. La stragrande maggioranza, diremmo bulgara, al 90%, ha votato un documento in cui chiedeva al Papa: esaminiamo quello che avviene nella Chiesa ortodossa. Sì. Nella Chiesa cattolica, quando si vuole fare una novità, si dice facciamo una commissione di studio, eccetera. Il Papa Wojtyla all'epoca, un anno dopo, ha fatto la sua lettera post-sinodale, che si chiamava Familiaris Consensus, ha detto esattamente l'opposto. Quindi ha ribadito niente comunione ai divorziati e risposati. Però il problema rimane. Allora, questo dialogo fra Verzè e Martini pone il problema anche di una flessibilità della Chiesa nella storia rispetto alle esigenze. Il problema è che gli ultimi tre papi, quattro, vabbè, adesso c'è Giovanni Paolo I, che però ha regnato soltanto un mese, sono stati una delusione per chi pensava che il Concilio dovesse rinnovare in radice la Chiesa e darle veramente... io vorrei che fosse chiara una cosa, non è che io sono dalla parte dei censori, a me il dibattito piace moltissimo, mi piace la discussione e penso che sia legittima. Quello che vorrei però che venisse fuori, se è possibile, è che cosa veramente implica la discussione. Allora, secondo me, io vado così, poi ne parleremo tra poco, ci sono un sacco di telefonate, testimonianze dirette di divorziati. Ma lei ha ragione, la discussione non c'è nella Chiesa, il problema di oggi è questo. Va bene, no, la discussione c'è nelle congregazioni, nella dottrina della fede, il Papa stesso, l'anima, con i suoi documenti. Comunque diciamo che la discussione non c'è, non c'è l'accettazione delle tesi di Martini e di Verzè, o di Verzè con perplessità, come diceva Tornia di Martini. Ma quello che voglio dire è questo: questa battaglia, il vero oggetto è la concezione della famiglia e del matrimonio e l'incorporazione, diciamo, appunto, lei lo diceva anche giustamente, per via però laicale moderna, del divorzio dentro gli ordinamenti della Chiesa. Ora, siccome il divorzio ha distrutto la famiglia contemporanea, che virtualmente non esiste più, adesso poi Zapatero completa l'opera naturalmente col suo codice civile, ma l'ha distrutta, ne ha distrutto proprio il significato, anche per i laici sacramentale, cioè il messaggio del matrimonio, non è più la promessa, la definitività, non è più quell'amore inteso alla procreazione, all'educazione dei figli quando ci sono, quando vengono, e che comunque celebra una terza cosa che sta al di sopra dei due coniugi, dei due celebranti, che poi sono loro che celebrano il matrimonio. È diventata una roba, un contratto matrimoniale. Lo si vuole incorporare nella dottrina e nella vita della Chiesa. Non so se è prudente, questo solo dico, da laico. A me poi non importa molto, io sono sposato in municipio, si figuri un po'. 800 24 00 24. Gesù Cristo era anche un maestro di giustizia, oltre che il figlio di Dio, il Messia, e non ha lasciato scritti tanti precetti. ha esaltato la giustizia e l'amore, li ha intrecciati insieme, ma precetti. Una cosa però l'ha detta, insomma, che possibilmente, se crede, se consente, l'uomo non dovrebbe, diciamo, dividere ciò che Dio ha unito. Cioè, se ti sposi, punto. Questa cosa l'ha detta. La Chiesa è in imbarazzo e deve difendere questo territorio evangelico, diciamo così. E quindi nasce questa questione terribile, sulla quale molti ci stanno telefonando, dei divorziati, risposati e da riammettere all'Eucarestia. Insomma, cosa che tra l'altro in realtà spesso succede perché decidono i parroci. Sentiamo Gildo dalla provincia di Lecco. Sì, Gildo, carissimo. Io sono abbastanza d'accordo con quanto scrive Vito Mancuso nel suo confronto con Augias del libro che hanno appena pubblicato. E sì, sostanzialmente dice che se la Chiesa non, diciamo così, si adegua ai tempi, come del resto sempre fatto nel corso di questi millenni, perché insomma Gesù non ha predicato quello che predicava l'ebraismo del suo tempo, sì, è destinata a, insomma, a ridimensionarsi. Io da laico non credente me ne dovrei compiacere, però non penso sia, diciamo, corretto. Sostanzialmente io auspico che la Chiesa, così come si è confrontata a suo tempo con l'illuminismo, insomma con tutti i movimenti che sono sorti nel corso di questi secoli, dovrebbe farlo anche con la modernità. Lei è anche per l'elezione diretta dei vescovi? Come, scusi? Lei è anche per l'elezione diretta dei vescovi? Invece che la nomina papale attraverso il nunzio? Non mi sono mai, siccome non sono appunto non credente e non praticante, non mi sono mai posto questo. Secondo lei, diciamo, le parrocchie devono dare la pillola alle donne, per esempio nelle favelas brasiliane, nei grandi agglomerati urbani brasiliani dove c'è povertà, dove c'è il rischio? Sarebbe, diciamo, troppo bello per essere vero, ma non penso che lo faranno mai. Ah, però le piacerebbe se lo facessero. Come no? Sì, l'ho detto, qual è la mia posizione. C'è questa cosa, la sua telefonata, Gildo, mi provoca una domanda. Quelli che stanno fuori dalla Chiesa e che pensano che la Chiesa debba fare il suo, come me, sono pochissimi. Quelli che stanno fuori dalla Chiesa e che pensano che la Chiesa deve diventare democratica, che i vescovi, domani anche il Papa bisogna eleggerli, che le cose vanno decise con referendum dentro il cosiddetto popolo di Dio, sono invece moltissimi. Come mai la società che sta fuori le mura della Chiesa, Tornielli, è così vogliosa di una Chiesa laicizzata, democratica, in cui, diciamo, declericalizzata, in cui il presbitero conti sempre meno, si travesta, si mette in clergyman, si vesta come tutti gli altri? Perché questa idea della Chiesa che entra nel mondo e si compenetra col mondo è un mito spirituale così travolgente, culturale, una ideologia, direi, del mondo contemporaneo? Perché non c'è questo riflesso, che a me sembra così normale, così umano, così psicologicamente e culturalmente giusto, di dire: ma fate il vostro mestiere, poi uno è libero di stare dentro, stare fuori, ma come mai, secondo lei, Tornielli? Credo che ci sia innanzitutto una, da parte di chi sta fuori, diciamo così, una mancanza di esperienza di che cosa è la Chiesa, di che cosa sia la vita di fede, perché i precetti, le prescrizioni, i sì o i no, per rifarmi al titolo del libro sì, di Politi, sono comprensibili, o si possono capire solo, si possono capire bene nell'ottica della fede, che è innanzitutto un grande sì alla vita, un grande sì che l'uomo dice a un altro, cioè a Dio, al Dio di Gesù Cristo, che uno si mette a seguire. Il cristianesimo non è, e questo lo ha detto benissimo il cardinale Ratzinger più volte, poi anche da Papa nel prologo della Deus Caritas Est, non è innanzitutto una serie di norme e di regole morali, anche se purtroppo oggi, per le semplificazioni mediatiche, per certo tipo di dibattito in corso, per un intreccio esistente a causa delle emergenze etiche tra fede o comunque tra religione e politica, non è una serie di norme etiche, non è neanche un pacchetto di dogmi o di riti, è innanzitutto un avvenimento storico e il fatto di un'esperienza, sì, certo, di bellezza, dell'andare dietro a qualcuno che è Gesù Cristo. Solo in quest'ottica qui poi si capiscono le regole morali, ferma restando il fatto della legge naturale. Invece io, per esempio, che non sono nella sequela di Gesù, nel senso che non credo attivamente in modo confessionale, posso essere teista, ma l'idea che ci sia che vada postulato Dio non equivale a essere un devoto cristiano o cattolico, e invece io penso che la Chiesa deve fare il suo mestiere nella società, no, che ma questo arricchisce la società, la fa più bella. Che a causa, credo, anche di questo clima e di questa mancanza di esperienza, si finisce poi per proiettare sulla Chiesa una serie di talvolta di luoghi comuni che invece secondo me non hanno certo, poco certo. motivo di esistere, tanto più che voglio dire il prete è giusto che faccia il prete, io credo che è giusto che sia riconoscibile, ma soprattutto perché sennò viene meno il suo essere. Grazie. Anna dalla provincia di Bergamo, una domanda insidiosa, prego Anna. Buongiorno. Io la mia domanda era questa, visto che la Chiesa non permette la comunione ai divorziati risposati. Prego? Divorziati risposati. Risposati? Ma chi, io una coppia cattolica, che è il marito o un amante, o una moglie o un amante, può fare la comunione? La risposta a Don Di Giacomo. Ovviamente sì. Vabbè, questo è, diciamo così, il confine dell'ipocrisia su cui poi ci giochiamo. Poi sostanzialmente... No, ma può fare la comunione, sì. Si confessa, si pente, si fa la comunione e torna dall'amante. Va bene, questo poi vede. Questo però è sempre successo. Però questo, no? Diciamo, è la discriminare. Prima anche riflettevo, ma perché volete veramente che un cattolico, un credente o un prete dichiari insignificante il battesimo di una persona, anche se questa persona è divorziata o omosessuale o... Cioè, come fa? No, perché come si fa? Come si fa? Perché nella... è insignificante il battesimo? Ma appunto, allora, lei sta molto estendendo la crudeltà della gerarchia. No, ma se il battesimo... No, non sto dicendo, sto riflettendo per me, per carità. Diciamo così, sono cattolico, i vescovi non solo obbedisco ma li venero, certo. Quindi non, quando fanno i vescovi poi certo. Se parlano di politica penso certo. Di essere autorizzato pure a pensare diversamente, spero bene. Quindi diciamo così, come si fa, come diceva anche Andrea Tornielli, nell'esperienza della Chiesa un divorziato risposato che viene a chiedere l'Eucaristia partecipando alla vita della Chiesa. Certo, le norme diranno una certa cosa, ma come problema, come interpellazione, questa è una domanda profonda che nella comunità rappresentata sacramentalmente dal prete tutti dobbiamo comunque ma anche un porci. Pluriomicida pentito becca l'eucaristia, no? Lei per esempio il problema si incorpora nella vita della Chiesa la nozione sì, di ma lei per esempio ha difeso quei dissolubilità quei grandi... del vincolo matrimoniale su questo lei non mi risponde ma lei ha difeso la dissolubilità del vincolo sulla quale il maestro di giustizia ha detto no. È indissolubile. Sì, ma non è certamente, scritto nei ma non è certamente il fatto che si dica sì in chiesa, in una cerimonia dove tutti giocano a fare la bella bambolina e il bel bamboletto che garantisce la sacramentalità. Questa è una fictio iuris, cioè noi presupponiamo che quel matrimonio sia sempre valido. Ma chi va in chiesa senza convincimento? Sentiamo il parroco che sposa persone che non ha mai visto in parrocchia? Sì. Vabbè, certo. No, vorrei dire una cosa però. Non è vero che nella Chiesa Cattolica un sacramento, che è un segno potente di creare una nuova situazione sacramentale, appunto, sia irreversibile. Per esempio, l'ordinazione sacerdotale è un sacramento. Si diceva una volta prete, sempre prete. Infatti è irreversibile. Eppure la Chiesa ammette, stabilisce, definisce delle procedure in cui in maniera assolutamente non conflittuale, per esempio, Don Filippo fra un anno potrebbe tornare allo stato laicale, sposarsi, avere dei figli, fare con la, quindi con la dispensa. Sta facendo le corna, questo sacramento quindi è in qualche modo è revocabile. Sì. Allora, la stessa cosa di fronte a un'opinione pubblica che sente questo problema viene posta oggi per il sacramento del matrimonio, cioè anche il sacramento del matrimonio deve prevedere certe procedure. Io però vorrei fare un piccolo passo più in là, cioè che il cardinale Ratzinger si era già reso conto di questo problema. E il problema è che mentre il teologo Ratzinger molto brillantemente, spesso in suoi scritti, in suoi interventi, pone delle questioni, Oggi che Josef Ratzinger è Papa, che sì, potrebbe come governante, come leader, dare delle risposte sì, concrete, invece è timido, è fermo, perché Ratzinger aveva due idee. Primo, di prevedere una annullabilità, diciamo una dichiarazione di nullità più rapida, tenendo conto che milioni di cattolici si sposano senza avere un'idea chiara dal punto di vista della fede e del sacramento, e quindi si sposano superficialmente. E questo già, ecco, tradurre in una norma questa accertamento di superficialità va bene, risolverebbe noi, diciamo, molti problemi. Noi cattolici onorari accettiamo le decisioni, ecco, della Sacra Roma. L'altra questione è che Ratzinger, prima di essere Papa, aveva anche un progetto di dare, di decentrare queste decisioni e di darle all'autorità del Vescovo nelle sì, singole diocesi. Ecco, queste riforme, diciamo riforme parziali, Ratzinger come Papa non le fa. Il decentramento, sì, insomma la Chiesa amministrata come certi stati, il federalismo nella Chiesa, non so se è una buona soluzione. Probabilmente sì, probabilmente si dovrà andare in quella direzione, la collegialità è una cosa molto seria, insomma, come... Però chi lo sa come fare queste cose, eccetera, insomma. Ancora una telefonata, Aldo, provincia di Caserta. Aldo, caro. Ciao, buongiorno a tutti. Io da semplice cattolico apprezzo ciò che ha detto il Cardinal Martini, sì, perché insieme alla circostanza che il Papa nel suo viaggio a Gerusalemme suscita le coscienze specialmente dei cattolici. Sì. Io vorrei dire tre cose. Primo, mi sembra una contraddizione che la Chiesa ammette che il divorziato segua la Messa ma non partecipa all'Eucaristia, quando l'Eucaristia è il punto culmine della Chiesa e dà la possibilità a tutti a partecipare alla divisione del corpo di Cristo. Quindi uno che partecipa alla Chiesa e non va alle Eucaristie è inutile che ci va. Punto primo. Secondo, non credo che Cristo sia così. C'è comunione, Aldo, anche senza diciamo che ti sia amministrato il sacramento dell'Eucaristia. Anche se non prendi l'ostia, è una situazione di comunione. Ma questo è abbastanza ovvio. Io frequento le messe, i funerali o quando vengo invitato, eccetera, eccetera. Persino io sono in qualche modo in comunione cerimoniale, rituale, perché la liturgia è una cosa importante, insomma, è la convocazione del creato. Non è che insomma è una cosa per cui l'Eucaristia è il biglietto che devi pagare perché sia valida la messa. Credo, Aldo. Cristo ha lasciato le sue 99 pecorelle e è andato alla ricerca della centesima, non l'ha lasciato fuori del recinto. Cristo ha detto alla meretrice: vieni, dove sono coloro che ti hanno incolpata? E va in pace e non peccare più. Bellissima. E poi l'ultima cosa, per quanto riguarda i processi per l'annullamento della Sacra Rota, la Chiesa farebbe bene a diminuire di molto i costi per il relativo processo. Tutto qua, perché sono va bene. Niente. Andrea da Verona. Andrea. Sì. Andrea. Serata, grazie, stimo. Chiarissimo, prego. Niente, la risposta che ha dato prima, mi pare che la domanda fosse a Tornielli, quando ha chiesto come mai da fuori sono più interessati che non quelli di dentro a vedere la Chiesa cambiare, eccetera. Ma io penso che ci sia un tema di fondo. Quelli che sono fuori spesso avvertono anche un senso di nostalgia, vorrebbero essere dentro ma non riescono ad accettare queste difficoltà. Quindi più c'è in essi probabilmente un conflitto fra il desiderio di essere dentro la Chiesa, riconoscersi fuori invece dalla Chiesa e riconoscere le proprie debolezze, le proprie difficoltà ad accettare quello che essere dentro la Chiesa comporta. E quindi in questo senso poi il dibattito fra tutte queste... Quindi lei dice meno regole, una Chiesa diciamo più amica del mondo, più uguale al mondo, tra virgolette, e quindi io posso essere dentro la Chiesa. È da questa nostalgia che nasce la volontà di democratizzarla, secondo lei? Quello che dice la gente, questo è quello che dicono quelli di fuori. Quello che dicono poi sostanzialmente è che probabilmente, quello che dico io, è che c'è spesso anche tanta non consapevolezza, tanta ignoranza o tanta non conoscenza degli aspetti. L'ultimo ascoltatore, per esempio, quando ha detto questa cosa sulla quale mi permetto di dissentire fortissimamente, sarebbe ora che la Chiesa abbassasse di molto i costi di una... probabilmente dovrebbe andare a vedere quanto sono effettivamente i costi, perché non sono assolutamente così alti. Ci sono dei costi che sono relativi più che altro a... ne so perché sono implicato. I costi della nullità matrimoniale, lei dice? Sì, di nullità, delle richieste di nullità. Sì, ma guardi, diceva Don Di Giacomo che è stato fissato un limite dalla conferenza di Stoccolma. 2.800 euro, comprensivo di tutte le consulenze e dei due gradi di giudizio. Vabbè. Il celibato. Martini dice, e credo che più o meno sia anche il parere di Claudio Hummes, del cardinale che è prefetto della congregazione del clero, Martini dice il celibato è un grandissimo valore, la castità di un uomo come voto di consacrazione di se stesso a un ideale di vita è un grandissimo, straordinario valore, e non si può non concordare con lui, se non si sia così dei mangiapreti, degli anticlericali al barolo, vecchio stile, che ce l'hanno con i preti, che dicono che poi i preti alla fine insomma fanno quello che fanno tutti, insomma, quella robetta lì un po' volgare. Ecco, allora, se uno prende il presbitero, il suo voto di castità, dice... Però anche quello non c'è sempre stato nella Chiesa, Pietro era sposato, viene sempre ripetuta questa cosa, e un prete può benissimo essere sposato, anche nelle Chiese orientali è così, adesso c'è addirittura l'idea di consacrare i viri probati, insomma di costruire una situazione intermedia. Quindi il celibato, dice Martini, è una cosa bella, ma perché imporlo a tutti? Tornielli, perché imporre a tutti il celibato? Lei è d'accordo con Martini su questo, che bisogna togliere quel divieto di sposarsi per i preti? No, io però, diciamo, personalmente non è un problema che mi tocca, essendo sposato, e non avrei alcun problema se andando in parrocchia il mio parroco fosse sposato. Però devo dire che capisco invece la profondità della ragione del celibato, e non io sono d'accordo, diciamo così, con il mantenerlo. Vorrei dire che Martini fa un'affermazione però da leggere, certo gesuitica, ma da leggere in profondità, e cioè dice attenzione al clericalismo, cioè attenzione che noi non pensare di usare il fatto che non ci sono preti per gestire le parrocchie come modo di pressione per dire allora ci vuole il celibato, perché l'unico motivo che lui dice, attenzione che i preti servono per i sacramenti, la gestione anche amministrativa delle parrocchie, qui è il suo appunto contro il clericalismo, può essere data benissimo ai laici, e lui comunque infatti dice che a eventuali viri probati non dovrebbe essere data. Ecco, posso dire però una cosa, oggi ho pubblicato sul Foglio un'intervista con un vecchio saggio valdese, Giorgio Turn, pastore, grande erudito e conoscitore di Calvino. E Turn dice, Martini e Verzè sono in ritardo di 300 anni, cioè il punto è questo, insomma, esaltazione del laicato, la libertà di coscienza che diventa il paradigma, sono tutte cose che sono già state pensate da un grande genio religioso come Lutero, ribadite da un grande talento teocratico come Calvino, è stata costruita una repubblica di idee, di fatti, che è il protestantesimo, è il sacerdozio universale, cioè, allora di che stiamo però, a parlare? Però scusami, però questo è verissimo in termini teorici, ma qui stiamo parlando della situazione attuale, concreta, interna della Chiesa. Chiedo a Politi, la situazione interna attuale è questa. Allora, domani i preti si possono sposare, no? Il monaco Lutero, un elemento grande della sua rottura fu dire, no, io mi sposo Caterina von Bora. Benissimo, si possono sposare. Dall'altra parte le parrocchie possono essere amministrate dai laici. Vabbè, allora facciamo i pastori, che ce ne facciamo dei preti? No, ma la situazione interna della Chiesa, da questo punto di vista, è nuova ed è catastrofica, nel senso che in larghe parti del mondo ci sono parrocchie che non vedono il prete per un mese, per due mesi, per tre mesi. Se ne è discusso tra, ad un tra sinodo. I protestanti ci sono parrocchie che non vedono il prete non per tre per anni. Niente, ma quello è un altro discorso. Ma per diciamo, dire che no, quella via lì è stata sperimentata. No, ma qui c'è il problema che ci sono delle parrocchie vive, parrocchie vive che hanno bisogno di celebrare la messa. Sì. E non si può in continuazione o affidarlo a laici che possono solo fare la parte della messa che riguarda la parola, l'annuncio del Vangelo, o, come ho detto una volta umoristicamente un vescovo, fare arrivare le ostie Findus, perché questo poi succede, che vengono mandate per aereo, perché parliamo anche di distanze grandi, un pacco di ostie che vengono distribuite, ma non c'è la messa, non c'è il rito del sacrificio, non c'è il momento in cui il pane diventa il corpo di Cristo. È catastrofico, allora, però questo è una minoranza di situazioni. No. Ormai grandissime parti del terzo mondo che vedono il prete solo una volta ogni 3 mesi, una volta ogni 2. Allora, rispetto a questo problema, io trovo bello come questo, rispondere? Tra l'altro, chi l'ha detto che tutte le domeniche bisogna fare? Beh, questo però è un'esigenza, si diceva dal punto di vista teologico, che l'Eucaristia è il pane dei viandanti, cioè il pane dei credenti che attraversano la storia. Allora, io credo che oggi un po' di digiuno eucaristico, che oggi si potrebbe, si è aperta una nuova prospettiva, non è più soltanto sposati sì o sposati no, perché certamente il celibato è anche un segno anche di grande fascino, di grande incidenza. Però quando si parla dei viri probati, questa parola un po' strana, cioè persone di età capaci di fede che a un certo punto possono decidere di dedicarsi al sacerdozio. Io sono stato a Costantinopoli, ho visto il segretario del patriarca, che era un ingegnere che veniva dalla Anche Germania. Anche il pope, io da ragazzino vedevo questi pope col codino. No, ma lui ha deciso a 60 anni di fare il prete. E perché non utilizzare è appassionata l'atmosfera, è appassionata, Don Di Giacomo vorrebbe parlare, non si può purtroppo perché abbiamo finito il tempo. La situazione è nuova ed è tutta entusiasmante, che il celibato il carisma della Chiesa Latina e speriamo che Dio ce lo conservi a lungo. Ho capito, lei è per il celibato. Va bene, 9:57, dobbiamo chiudere. Grazie a tutti voi, a Andrea Tornielli, a Marco Politi, a Filippo Di Giacomo, in redazione Franca Fossati e Gloria Guerrero, in regia Valerio Rocchetti, Peter Bescapè. Linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0.